qualcosa di nuovo. A me la cosa che mi piace di più è andare alla scoperta delle varie funzioni. Così quando ebbi per la prima volta l'FT1000, sinceramente non l'ho aperto il manuale, sono andato alla scoperta così come un ricercatore fa. Delle varie funzioni, cioè, conoscevo già la macchina perché per carità la conoscevo, l'unica cosa che sono andato a leggermi era la situazione di sottomenu, robe un po' più specifiche che sinceramente non ho mai poi ne utilizzato, però poi il resto me lo faccio poi una volta che vedi le varie funzioni, poi sono sempre le solite che utilizzi, perciò poi da lì non ti muovi e poi prendi confidenza con l'apparato e va. Eia. Confermo. Spero questo fine settimana di riuscire a dare una sistemata anche all'antenna, alla verticale, perché c'ho tutto, Omasinia, c'ho tutto per sollevarla e eccetera. E così lo provo anche per bene nelle HF, e così riuscire un pochettino a vedere come va e a tirare fuori anche un po' di performance anche dall'antenna, perché così com'è è troppo bassa come ben sai. E cos'è che volevo dire, comunque accidenti, è proprio una macchina da combattimento, proprio una macchina da combattimento. Stavo guardando se c'era per caso in qualche minuto nascosto la possibilità di abilitare il processore in AM e in FM, ma non c'è. No, c'è, io ho provato a abilitarlo, ma non... è meglio non abilitarlo, credimi, fregatene. Ci ho provato, l'ho fatto funzionare, perché c'è un modo per farlo andare, però non ha senso, perciò ti consiglio di lasciar perdere. Ma si è già fatto l'esperimento, allora, ok. Poi ho visto con il setup A2 nel microfono, che prima stavamo provando anche con Claudio, sta tirando su un po' più di medio alti, per cui credo che vada bene così. Sì, poi ripeto, te lo devi performare per il tuo tipo di modulazione di voce, perché sennò è inutile che ti dia la mia di modulazione quando non va bene. Devi trovare il tuo giusto setup ed equilibrio tra la tua modulazione, microfono e apparato. Backup, sì, confermo. A proposito di conferme, mi hai fatto venire in mente che ti dovevo inviare una cosa. Vediamo un pochettino. Queste sono quelle generi cose, ma simile, che è meglio farle quando uno è in testa in quel momento. Senti, non lo trovo. Un plus application, cavolo, l'ho messo. Attacce, se no faccio prima, mi sa, a collegarmi al mio pastore in ufficio a Isetta, che mi collego al server dell'ufficio e me li prendo da là. Adesso non c'è problema, ti preoccupare. Me li dai quando mi dai quell'altro, tutto assieme, fregatene, tanto non ne ho fretta. Tanto già hai visto cosa sto realizzando. Perciò prima di terminare e fare il report ce ne vuole ancora. Via, quello senza dubbio, aspetta un attimo. Ho qua dir condivise. Io mi sono fatto una collezione di programmi e programmini che ogni volta servono. Vediamo un po', eccolo qua, trovato, continuare, sì, via, e me lo metto qua, Borland, incolla, ok, arrivato, aspetta che chiudo la VPN, chiudi il tunnel, Ancau, eccolo qui, se ti faccio una mail, ok, allora, e ti faccio un bel rispondi, our DF, e voilà, e track, allora, ti metto, allega, sfoglia, va, va, solo qui, apri, lega, e quel nuovo giochino acceso, sì. Quale? Quel computer che va a carbone col piccetto stanco? Eia, quello a sei dimensioni. Tu sempre, se non esageri, se non fai lo sborone non sei contento, eh? Mi raccomando, non smentirti mai. In via. E tu molto ciao ti ho scritto Zumari. Già non mi offendo. Controlleggia. Allora controlleggio. Aspetta che questo computer è lento, aprendo, capito? Aspetta un attimo. Sì, te ne fa scendere il latte a terra e ti capisco. So, già arrivi il 2. Così piccolo, eh? 135k solo, ma no, non serve. scompala. Zitta, che qua cerco di rimanere ordinato, perché sennò poi dopo divento scemo. Allora, mentre lo mettiamo qua, adesso non so se ce la fa scompattare. Metti tutto nel desktop, perché tanto c'è disordine. Sì, mi lo trovo domani. Via. Eccoti qua. Tra un minuto parte il mio torneo. È così? Cos'è? Ma tra roba ti devi fare. Ma vediamo. Primo mi hanno già crepato. Adesso riproviamo. Adesso ne partono due alle 11. È uno alle 11.30. Ok, ho aperto visto che ci sono i vari Pascal. Allora, vabbè, c'è scritto anche come lo devo utilizzare, perciò non penso di trovare grosse difficoltà. No, quello no. Cosa che ti volevo dire? Se vuoi invece ti mando, però quelle ce le ho in ufficio, delle routine già fatte per i componenti Office. Ah beh, quando vuoi, sai che è sempre ben gradito e ben accetto queste cose. Mi fa piacere, non c'è nessun problema. Cosa ti è sembrato questo applicativo che sto realizzando? Bello, poi se porta soldi ancora meglio, guarda. quello che si spera sempre. In previsione di fare un po' di vari prodotti, vediamo un po' che cosa esce fuori. Tanto in ogni caso lì, a prescindere dal fatto che ho investito qualche cosa per quanto riguarda i vari oggetti che ho acquistato sotto licenza, poi del resto è il tempo, ma quello non c'è nessun problema, perciò come dispendio di denari tra virgolette non ce n'è, perciò tutto quello che poi ne arriva è tutto di guadagnato. E assolutamente sì, penso che sia così. No, io dopo le ultime due bruciature che mi ha fatto tra l'altro la stessa persona, Fantoma, un sito internet e un altro programma grosso dove ci avevo dedicato veramente tanto tempo, adesso non mi sto sbattendo più di tanto nel cercare eventuali eventuali persone interessate. Mi faccio qualche torneo, preferisco. Quello si sta dicendo. No, io faccio il contrario. Faccio dei prodotti, diciamo, pronti o perlomeno semi pronti, e poi eventualmente vediamo cosa ne esce fuori. Perciò, sotto quell'aspetto lì, non dovrei perdere più di tanto tempo. Perlomeno lo sto impegnando adesso, però poi dopo me lo ritrovo pronto e fatto. Allora, se devi fare il torneo, vai tranquillo, che io proseguo a lavorare qua. Dai, se capita, ci ragioniamo per domani. Buon proseguo. Ciao Salvatore, ciao Bocco. Io no, tanto non mi disturbo, tanto questa è una cosa molto lunga, per cui sto operando, poi tra l'altro opero con gli joystick, cioè salto la tastiera del computer, che sto usando un programma che mi abilita la combinazione dei tasti direttamente sul joystick di una PlayStation. È molto più fruibile, così non muovo mai il mouse. Va bene. Ti devo allora abilitare un caschetto mentale, te lo metti in testa, e col pensiero riesci a fare le stesse cose ancora meglio, così non muovi proprio che niente. No, sai, è una cosa è pazzesca, perché quando vai a fare multitabling, cioè a giocare più tornei contemporaneamente, considera che ci sono i pro che fanno anche tornei contemporaneamente, no? 30 tavoli aperti, quindi. E considera che se non utilizzano strumenti del genere non possono muoversi con il mouse in questa maniera così veloce. Vabbè, immagino. Vabbè, dai, buon proseguo, che mi distendo un po' sul divano, che ho le chiappe secche a portare di rimanere su questa sedia. Buon divertimento a tutti. Grazie caro, annorbidi, ci sentiamo domani. Mammolo, sei morto o puoi salutare anche il buon Max? Sono morto, sono qua, sono qua al computer. Salutone e Max Emiliano, ce la risentiamo alle prossime, anche se non ti ho salutato poco fa, scusa, ma chissà cosa stavo pensando. Ah, c'è nessun problema, figurati, stai tranquillo. Vabbè, buonanotte ancora, ciao a tutti. Ciao Max, grazie per tutto, in ogni caso. Ci sentiamo presto. Mammolos. Ciao, stavo guardando un po' Facebook. La vita è cambiato, perché sono da un bel po' di tempo senza andarci, ero. Ed hanno cambiato la pagina un po'. Di che cosa? Di Facebook? Ma... Oh, io guarda, non so neanche di che colori ci siano, non ci vado. Beh, io già ci vado lì. Io da un parecchio tempo adesso ho visto il tutto, ho visto e via, dai. Cappa di Roger. Stavo cercando se c'era un amico, non fare di no. Sono concentrato, Grod, sono concentrato, sto facendo due tornei contemporaneamente. Esatto, va. Ecco. Sembra. Di Roger, sono sempre io, che vi sto ascoltando piacevolmente mentre sto aggiustando una cosa, dai. Io lo so che tu c'hai quelle orecchie lunghe e pelose. Assolutamente sì, anche detto. Orecchie di porco. 125 grandi bui e 132 nell'altro. Andiamo bene, vamos. Posso la playa. Cacchio, in quello di prima mi hanno già silurato, va, fantoma. Fantoma. Ok, però noi non demordiamo, la nottata è lunga. Però beh, Faber, cosa gli hai fatto? Cos'è? Fabri servizio cosa gli hai fatto? Gli hai staccato l'antenna? No, non l'ho sentito neanche, lo sento prima, poi evidentemente non ho il coraggio di rientrare. Il coraggio di rientrare. Uno di questi giorni ti invito a casa così ti faccio vedere, ci conosciamo, ti offro un caffè ovviamente amarissimo e poi ti faccio vedere come sono organizzato. Lo zucchero se vuoi lo porto io, se lo devi avere nell'altra stanza una cosa come 60 kg. Quelli che ti sono avanzati dall'ultima andata a Ittiri? No, dall'andata a Ittiri non me ne sono avanzati, anzi è un apporto d'errate per domani e dopo, quando scendono questi, quando salgono questi qua dei paesi, questi di numero, capito? Visto. Un bel race qua facciamo. La gente che siamo resi, tu io. Ci portiamo via il piatto. Vamos. Sente Luca, inizia a giocare anche lui adesso. Va. Ma volevo chiedere una cosa, tu. Ma tu sei proprio di Sassari, o sei di qualche altro paese? Se conosci il mio cognome che ha una doppia U, è classico alto tesino, no? Beh, anche Reggio. Non ho copiato. Reggio, sì. Io sono. Come Reggio? Reggio, del Tirolo, mi. Così è. Vabbè, comunque sei anche Reggio, no? Mi hai detto. Tirolese, Tirolo, del Tirolo, sul Tirolo. Sì. Ya? Yeah. Yes. No, sono tiroleso. No, sì, tiroleso, sì. Tu sei celebro, leso. Sul di Tirolo. Celebro, leso. Certo, tiroleso. Oh, bombo, lo lascerò perdere a Gronde, che a quest'ora inizia a incasinarsi le rotelle. Ma no, non riesco a capire cosa mi stia dicendo. Tu hai preso il sud di Tirol? Così. Così. È una zona della, diciamo, quasi al confine tra Napoli e città limitrofe. Che fa cagare. Ma hai fatto una cagata, che fettina. Ma una domanda devi dire in favore. No, no, non è scherzo. Scusa, se il sud del Tirolo vuol dire che nella parte sud del Tirolo, il Tirolo è un fiume che passa fra Napoli e Desenzano del Garda. Ma tu sei sabio, non sei di Chive, tu sei sabio. E Desenzano del Garda. Io già conosco il suo cognome, il cognome è Sardo, non è di quella zona. Esatto, ti dico la verità, sono state messe due U, perché prima era O, al posto della U c'era la prima U, c'era la O, della seconda U c'era la I. E infatti io sono un accudito. Vinto sì. Fatti Roggero. Ma c'è da parecchio a tazza di però, Sì, beh certo, da quando ero piccolino. Mio nonno era partenopeo, cioè in breve, a sua volta era partenopeo, significa quando una madre e un padre, una che fa parte dell'Europa e l'altra no, quindi parte, in parte europeo, capito? Partenopeo. Vabbè, comunque, allora, a poche parole, io ho capito così. dice, ma poco giù è sardo, sua madre non è sarda, così è? Sì, voglio dire. Ecco qua. Per tagliar corto. Ma e poi dopodiché l'altra domanda era, che lavoro faccio? Risposta, non lavoro. Negativa, non è che non lavoro, diciamo che non lavoro un po' particolare. Ho i soldi a strozzo. Ok, elaboro, elaboro quella che è il risultato di una fotosintesi clorofiliana al fine di riscaldarne l'elemento e di renderlo da uno stato solido a uno stato liquido per poi riportarlo a uno stato solido, allorché raccoglierlo con un elemento di carattere legnoso. Una cazzata. Porca vacca, questo mi ha risato a 160 grotte, cosa mi consigli di fare? In balla. Sto puzza di bless, maledetto, lascia andare. Rapido, rapido, io avrei crepato. No, negativo, sono in questo momento sono trentesimo su 596 players, quindi rimango così, preferisco. Poi devo comprarmi l'amplificatore. Roger, ma tu domani ci sei alla cavalcata, tanto? Cavalcata? Poi non andiamo a vedere i pastori. Dire pastori, sono gente che vengono dai paesi. Scusa, perché c'è contro chi ce l'hai? Contro quelli che vengono dall'entroterra? Sto scherzando, non è vero niente. Sto scherzando, sto scherzando. È un modo di dire che si fa, no, no, la verità, non mi è interessata la verità, non mi è interessata la cavalcata, l'ho vista una volta. Molto bella, è molto molto bella. Ma, no, la verità non mi è mai interessata, ho trovato, io l'ho vista una volta, ma non... stavo scherzando, e poco fa. Eia, per carità. E poi in ogni caso sarebbe stato un tuo lecito parere. No, è molto molto bella, molto bella. È che capita di il fine settimana, in due giorni dove ci riposiamo, per cui boh, per noi non è così appetibile. La verità non è bolscevedente di questi che c'è in mezzo ai monti, io li avrei ricaricati sul furgone col furgone, perché poi alla fine domani ci sono tutte le serrande pisciate di Sassari, capito? Perché si imbriacheggiano. Altra cosa è i candelieri, lì per il tanto. Ma sì, però diversamente, ci sono tanti gruppi in Sardegna dove suonano magnificamente bene, per stare dalla mattina alla sera. Il primo giorno, il secondo giorno, un vinto ben breve, cioè non è che, no, è che mi piaccia troppo questa cosa. E altra cosa invece sono i candelieri, dicono. Questa gente scesa dai monti, come stavo dicendo, perché ci siamo sovramodulati, andrebbe ricaricata sul furgone e col forcone. Certamente. Perché un anno potrebbero fare, potrebbero fare un giorno di canti sardi e coso, un giorno una metà, quella ditta, ciao Falche, ciao ciao, sale, Roma così, invece stanno sempre, scusate per la torre per la Marta Cristiani. Buonasera, Falche. Ciao Antonio, buonasera anche a te. Falche, okay, presto stavolta. Ho cambiato, scusa. Dico presto stavolta, hai acceso. Ah, è sempre presto. Grazie, dai, saluto subito. Ma guarda che... anche io l'ho fatto qualche volta, di accendere alle 5, alle 4 del mattino, qualcuno può confermare, ma no, perché adesso sono un po' di tempo che non lo faccio. Ma il giorno dopo non devi lavorare? No, dipende a periodi come me ne alzo. Ma non ti preoccupare che magari le faccio un'oretta così e poi mi torno a ricoricare. Dipende come mi sento a testa a me, con cosa voglio fare, dai. E cazzo a cazzo. Ma mi sentite lo stesso se parlo così a voce bassa, perché non vorrei disturbare. Sì, più sensuale anzi. Se ti devo dire la verità, c'è una voce davvero molto sensuale. Certo. Tu devi applaudire però, non vorrei che si stia facendo il cattivo ragazzo. Tu muovi le mani. Applaudire, era un po' da poco che non la sentivo. Sì, spero che non mi sentano, anche se mi sente mia moglie stasera, mi tira la radio nuova in testa. Sabato, sabato. Perché? Manco arrivata la radio, la sto sciogliendo. Che... Ciao, va bene, almeno se ne scappa un po', dai. Sì, sì, guardi. Manco quando è nata mia figlia era così un po', raga. Ciao, va bene, dai. Non va bene per niente. Stamattina sono scappato dall'ufficio, ho tirato una balla di quelle stratosferiche, ho preso anche permesso ordinario per andarmi a recuperare l'aria a Porto Torres. Minuta, vai alla grappa. Gesù Maria, cara. M'ha fatto mia moglie, perché poi siamo nella stessa stanza in ufficio, anche se ci occupiamo di cose completamente diverse, ma ho fatto se tu avessi avuto un amante probabilmente avresti fatto meno casino. Complimenti, proprio un tipo che ci teneva tantissimo alle radio e poi quindi ci teneva che anche questa che mi stava mandando arrivasse intatta. Insomma, ma ero emozionato, cazzo, ho detto adesso non metto un nastro azzurro fuori dalla porta di casa. Dentro che mi smollo, Ma lei che va, tu vieni con una 17 qua. due ritazzine, perfetto. Comunque Falche 9-10, perfetto. Tanto quando davi quanto volevo. Poi aspetta, io ho anche un attenuatore abilitato, mi fai il passaggio adesso? Vedo un po', 1230, 40, 50 e 9:30, 9:35. Ma a poco fa c'è per l'attenuatore, vero? E hai un filtro che ottimizza la ricezione e taglia un bel po' di QRM e quant'altro. Per cui non si perde l'audio, però chiaramente nello Smith il segnale lo fa vedere molto più basso. E io come sono senza attenuatore? Senza attenuatore sei 9:30. Sì, aspettina, quando mi arrivi tu qua? Invece pulito con questo filtro mi arrivi un Santiago di 9. No. Aspetta, così tanto attenua. Però pulisce, capito? Pulisce tutto quanto l'audio, insomma. Più o meno quanto fa che il suo arrivo, là. Sì, esatto. Falchetto qualcosa di più. 9:35 da come attacca. Ma siamo lì, sente benissimo. Considera che sto usando poche watt, sto usando. Sto usando 4 watt normalissime, una radio normale. Eh sì. Negrone. Non è il notturno, Negrone. Che fa che è Negrone? Tennisco, no, volete la batte, Negrone. No, mi sto riparando una cosa. Sto riparando una della tua macchina per domani. Te, faccio l'hot machine. E poi il bello di Grodd è che poi per essere sicuro che tutto vada bene si mangia un chilo di zucchero filato prima di darlo alla propria utenza. E il colesterolo a 410. No, lo fa per essere sicuro. Per me la cosa sicura è il cliente, giusto? Grone. Papà, ma non è colesterolo, è glicemia. Salvatore. Mamma mia, la glicemia. È contagiosa la tua risata, Salvatore. Va a Napoli a te. Ma il giorno che viene qua la festa mi compro lo zucchero a grotte, lo zucchero filante, che sono da un mese sta mangiando. Ma ci rubi, ma tu se è filante vuole fare il formaggio, lo facciamo. Non lo so come si fa. Come lo fai? Tanto a te troveranno cazzo tracce di sangue e mezzo. Un zucchero sciolto, ok? Silibriu! A voi le nocche! Silibriu! Chi è? Silibriu! Io! Falchetto! Ehi, buonasera! Come ti chiamo Silibriu e non rispondi, va? Ti chiamo Falchetto e rispondi, cos'è? Non sei sardo? Sono sardo! Celebriu, mese, rapido, Celebriu, rapido. Ui, Ioanne. No, so, e te pari, ue, e te se confide. I miei scazzi e mesimus. Ehi, no, mi sto giocherellando un po', niente di particolare. Giocherellando. Ehi, ai miei compagni di Grode, di Salvatore e di Antonio Bombo, vada che vuoi. E te li chiesa, non c'è. Entra avanti, Giuse. È andato a prendere. Niente, va. andato a prenderci lo zucchero. Un zucchero di glicemia. No. Lo è vero. E volare non veste. Cosa è successo? No, oh, volare non veste. Chi è? E non si chi è? Cosa? Moro. Velocetto. Ah, no, non l'ho sentito stasera. No, io sono andato poco fa e stavo trivellando con Antonio un attimino. No, niente di particolare. Stavo generando con Antonio. Un po' così, un po' qui, un po' là. Capito. Niente di più. Ho capito. Vai, sabato per Giovanni. Taglio l'ha ben sentito. Non farti una cattiva idea di noi, eh. Di chi di Trivio. No, ragazzo bravo, io non ho mai detto che non conosci il sardo, ho detto solo che non si riconosce solo se lo chiami in italiano falchetto, se dici Trivio lo ignora e evidentemente gli va giù. Deve essere una cosa del genere, ragazzi. Cioè, prima si mettono i nomi, no? Io da Giaguaro sono passato a manicomio, mai meritato, capito? Invece uno che si mette, si Trivio, capito? E si fa chiamare falchetto, ma non ho capito bene. Uno, adesso la lingua sarda è passata lingua ufficiale, quindi io posso chiamarlo Trivio e posso parlare anche il sardo. Oh, dai, ma Trivio. Ma non su Valchetto, ma non mi trovo nulla, giusto? No. Su Valchetto, pensate, ma te ne invito, dai. No, ti sbagli. Il Falchetto è su Trivio, proprio lui, è proprio lui, ma detto in modo diretto, su Trivio, non su Trivio. Su Trivio è la cavalletta, non ti confondere. Già l'isco. No, già l'isco, ma continua a ignorare la lingua sarda. Compreso, Trivio e boh. Quando lo ti chiama Trivio, se ci puoi rispondere. Mettiamo che io non capivo l'italiano. Oh. Ecco, come ti trovavi? Ad esempio, io ho contato il signore anziano l'altro giorno, le parlavo in italiano e mi diceva, non ti comprendo, ma è di Sassu. Dico, vedere giù in italiano, dai. Cazzo, non si capiva niente. E quindi praticamente italianizzava il sardo, un casino, vabbè, c'è un fel. Il sardo è maledettamente stronzo per la sua lingua. È molto difficile che trovi un sardo che parla. Poi ci sono i dialetti, sassarese, poi c'è l'Interland lì, poi c'è Uri, Usini, che sono completamente diversi, Ittiri, un casino. Insomma, tutti diversi. Beh, ogni paese ha il suo accento, come le trovo, deve essere così. Cazzo dici, le voce di un capo bubuglione, cazzo, chi su buccia di gioca, cazzo, mi risponderà tranquillo, legna vecchia è nacchi, compara che la andare nacchi, pizzino è nacchi, e giocano e un capo di fuma. Chi è quello che è vero. Pizzino è un capo di fuma, è vero, ma ci sono tanti diritti che fratti. Tanti. E poi dove vai c'hanno un loro linguaggio, un loro sistema di linguaggio da capire soprattutto, Sì. Allora, io del cassettaggio, ti ciclavo di succune, mamma, tutte quelle cose strane che dicono scarica, non li porto per i propri. A me non mi piacciono, non ne capisco una sega. Delle cose che dicono tutti strampalati, ma va a Napoli, allora niente, ho rinunciato a capire castellaio e basta. E ci sono varie lingue che non se ne capisce niente, no? Cioè vari dialetti, scusando, che non se ne capisce nulla in Sardegna, ma in particolare anche il salgarese, non ti crede, sta mignonzi, e c'è un po' di mignonzi, cosa vuol dire? Punta che t'ammunta, sai cosa vuol dire punta che t'ammunta? Ma cosa ne so, non ho capito niente, casino, eh. Io ho fatto militare al Ghero e è stato un interforze, allora, gatto lì, un gallino. Che vuol dire? Non si capiva nulla. Anche gli americani, un giorno c'era uno che conosceva bene l'italiano, il francese, che legge, dice, ma cosa fa il turco? Muta vuol dire sali su in algherese, muta che ti ammuta, muta. Invece si affrega vuol dire monta, monta. Oh, che cazzo vuol dire? Ma meglio l'italiano, ci fa prima di scoppare, basta, capito? Allora, un macello, capito? Sempre meglio malire a malire della manca Mauro, lo dirò sempre. Sì, tu sei abile. Avanti, Sabados. Cappa. E comunque tra i tanti dialetti, quello sassarese è quello che infarcisce moltissimo, tra i tanti infarcisce di parolacce, c'ha un intercalare di insomma, di virgola che ha un'indifferenza. Sì, ama sempre che sempre mocca, ogni volta che parlo sono sempre, ovviamente sempre rispettando la loro lingua, però sono molto volgare. Vabbè, è il modo di fare, proprio il sassareggio, il sassarese è fatto così. Sì, anche quello pienamente d'accordo, infatti non metto dito, non metto lingua, perché così sassarese proprio in chiave, così. E loro, il loro parlare è quello, capito? Se può parlare a discutere, è così, capito la gioca, vai gioca. Fai vanne bene avvenanti due anni. Eia, che andrà bene con questo. E la si va bene. Le lingue vanno bene se sarebbe stato unificato. Tu prendi esempio British English, American English, un casino. L'americano è tutto maleducato, è simile al sassarese, invece il britannico è un po', come lo posso paragonare, lo gudorese, da più delicato, più qui, più là. Capito? A me piacciono più gli americani, molto più maleducati, più sciolti, più, anche più, secondo me sono più cordiali dei londinesi. Dopo che è andato un mio amico, così si è incontrato con dei britannici, stava lavorando nella fabbrica di cioccolato, e ne è venuto sparato. Mi ha detto, dice, sono al 99% tutti gay. Pensa un po'. Cazzo, e poi ce n'era uno, dice, sta facendo la cosa, il cioccolato. Ma non sto scherzando. Da dietro quello passava, ma prima non ci ho fatto caso. Poi a un certo punto, quando i rumori della macchina stava iniziando a ingroppare. Corre, quello. E dovuto andare, sarebbe... Confessio, Mari. Perugino, no, dai. Trasferito in Sardegna al volo, va. A parte che costava un sacco di soldi le sigarette, l'olio d'oliva è tipo 30 euro a bottiglia. Non si può toccare. Dice che la vita è carissima, poi dice tutto un casino, non si mangia, cioè non si parla, non dice, sono un po' tutti spettinati, incasinati, tra gente tutta. Ma io preferisco andare al centro di una città, qui, in Sardegna, e vedo Fero a tutta andare, la troncona che quasi mi fa vedere il pupe, insomma, tutta gente, ma anche Santa Claus è meglio. Amico americane, che brutti che sono. Io li odio. Poi parlo degli islam. Dell'islam. Non si informa in questa maniera. Scusate tu. Londra, dice, ci vogliamo tutti lì, ci vogliamo anche tutti lì, dove sono passati i Beatles, Nacchi. Questo lì, è vero. Poi arriva gli schimesi, mi. C'è della volta. Ma di Pirù. Già Pirù è una che ha ripreso il 9. Ma di, ma qua? Quelli poi avevano inventato la storia con i Beatles, che io non li posso vedere, ragazzi. Morti. Quando è morto quel pollo che si è spaccato? so, quel pollo. Mi sono fatto in vita, hanno detto che pollo era di nuovo. Insomma, non si capiva niente. Allora io non ho capito. Pollo. Nulla. Sono sempre degli udinesi. C'ha casinisti, c'ha potisti. Poi parlano di Beatles, Nacchi, il mito della musica, come cazzo, avete un cadavere in casa, lo risulta, tombe, tombe, fiori con tombe, addirittura siamo arrivati all'estremo, nella loro frente di qui, e le fiori con le tombe, bellissimo, diavolo, Paola, secondo me i Beatles sono guasti. E che cazzo, le case discografiche, ma vedi com'è, e poi noi disprezziamo il santo, uno con me che è 13 libri io. Ma niente, i Beatles, è niente, è proprio... che monti. Insomma, anche Londra non è che sia un granché. Meglio andare in Australia, dove ci sono un amico e una mia amica, tutti e due laureati, due grandi persone. La madre è mio figlio, è partito in cerca di fortuna. E le ho detto, ma le scarpe da tennis gliele ha messe nella sacca? Dice sì, perché? Perché ne verrà correndo. Parte cazzo in Australia, ne è venuto prima dei canguri. Correndo. Intanto come si fa? Che cazzo in culo. Dopodiché dice, dopo una settimana non lavoro, che manco un becco di un quattrino. Mamma, mandami un assegno. E dice, papà, ti la lea sicuro. Cazzo, le ha nato, mi hai bisogno canguros. Bene. Ah, fa culo, ok. Ma vedi com'è, il sardo è quello, il sardo non apprezza niente. Tutto il mondo a Virginia. Parlo dei tedeschi, mi parlo dei tedeschi. Allora. Gianni Giaguaro. Poco troppo per festa. Se va tutto curato. Cambiano le mogli. Addirittura uno. Ande cagai! Sai cosa le diceva alla pisella? Da Ponato Gappona, che se mi cambio? Da Ponato Gappona! E quella era una vecchia, la moglie era più bella, allora le si è picchiata la piscia. Cioè, cose, lui, ma guarda che è uno schifo. Se su quante risate, ragazzi. Non la capisco, queste imitando tedeschi, fanno... Racconti, sì, no. Io adesso li faccio spegnere il baracchino. Ma scambio delle mogli, un casino. Io che voglio cacciare, ma tipo le taverne, un... Vero, sa, che non viene bene a dirne. Anch'io voglio il suo pusher. La gente che veramente ci sa fare, ma vaffa. La. Toglimi le davanti. L'americano ora dice che un londinese o un tedesco intero, ma per favore, qua, una volta giù nella... Ma per carità. Con quella centri side che mi ha cagato e pisciato la vigna, calpestato in più. Attaccate la batteria. Avanti noi. Brutto maleducato che non sei altro. Eh? Io sono Tino Muscolo. E tu chi sei? Ciao Tino, naturalmente sto scherzando, facendo un commento così. Giovanni, entri. È una cosa per divertimento, niente di più. Mi è scappata qualcosa, ma era per ridere, scusandomi. Anche perché ci sono dei bambini all'ascolto, non peraltro. Non è stato fatto volontariamente, cioè è stata una cosa voluta. Non era semplice. Un attimo, scusa. Giusto per puntualizzare. No, assolutissimamente, io quando sbaglio ti so anche riconoscere e a vedere gli altri. Vabbè, dai, continua il tuo questo, naturalmente c'è quando ti la bocca un pochino, Ecco, non esagerare adesso però, non esagerare, ti ho già chiesto scusa. Io ti ho già detto che ci sono dei bambini all'ascolto anche. Vabbè, ma ti ho già chiesto scusa, quindi c'è quando ti la bocca è un termine un pochino pesante. Vabbè, chi ha orecchie per ascoltare, ascolti, no? Ah, perfetto, perfetto, vabbè. Speriamo che la preghiera sia dal giusto pulpito. Ma vedremo. Grazie. Adesso puoi continuare il tuo corso, Ah, benissimo, senz'altro. Sai com'è? Va bene così, Tino. Perfetto. Ciao, buonanotte. Ma, buon anno. Su, vabbè. Esempio di sardo. Avanti, Telebri. Era un discorso che stavo facendo senza offendere a nessuno, ovviamente. Non vedo motivo perché si debba intervenire così. Ma non lo so, non penso di aver offeso a nessuno. Capito? Ogni tanto da qualcuno che vuole fare il ganso, ma io me lo frego dietro, sinceramente. Tutto lì, il problema è risolto, non ho paura di nessuno. Avanti, ti limiti. Ci sono persone, da persona a persona, che sì, ma è così, in effetti io confermo quello che si è detto, che dove vai c'è sempre macello, da ogni parte del mondo, diciamo, c'è proprio la... È così purtroppo. Positivo. Positivo. Ma guarda, ripeto, non si può fare un commento completo di quello che so e che ho sentito, altrimenti per carità, guarda, ce ne sarebbe da scapparsi, proprio veramente ci vuole il fegato. Io non ci credevo queste cose, ma esistono veramente. E credimi che non lo so. Secondo me, certi miti sono da sfatare. Punto e basta. Perché la grande corruzione che c'è in Germania, negli USA o giù di lì, è solamente nascosta, però poi sono peggio di qua. Ah sì, quello sì, quello è vero, quello è vero, vero. Poi è stato sempre confermato il discorso che diciamo nella Germania soprattutto sono molto aperti, non hanno pudore né con i figli né con nessuno, è una cosa proprio scandalosa veramente. Scusate, posso dire una cosa? No, ma guarda, credimi, sembrano raccontate così, sembrano fesserie con qualche parola c'è in più, però non è così la storia, è la sacrosanta verità. Poi definiscono i sardi retrogradi, eccetera, eccetera, mi sa che sono meglio di loro. Perché a sentire parlare, vedere i loro comportamenti sono allucinanti. Ti sto dicendo che quando partono nei bar la sera, in quelle stamberie che non si capisce cosa sia, tutti i coti, tutti i fumati, fanno un buon casino che non viene bene a dirne, ma poi non rispettano più le leggi a una certa ora e sono fuori di testa. Sì, si conferma. Avanti, Salvador. Ci sono, io sto facendo un torneo nel frattempo al computer. Gappa. Ebbene, in effetti non è che abbiamo offeso a nessuno, giustamente si parla e niente, è tutto qua. Dottore. Gappa, dimmi tu. Ma comunque, mi sembrava una cosa un po' così, perché se è quasi mezzanotte, non vedo questa cosa, stavo un pochettino scherzando, sto esagerando un po' però, sì. Mezzanotte, come alla veloce, le 9 così, va bene, ma sta parlando, da capire, abbiamo esagerato un po', no, sto parlando sabato. Ah, no, non si capisce niente. No, pensavo che stesse parlando sotto, capito? Ho detto, sarà qualcuno. Comunque, buonasera, amico. Ah, io aspetta con la chiesa. Capito, insomma, ma è così, no? No, la ricetta ora sembrava strano che i bambini erano ascolti. Strano anche a me, quindi. Lasciamo sorvolare, dai, tutto qua, lasciamo sorvolare. Tu dimmi che sono un bambino a 38 anni. No, Luca, no, non è la verità della. Come dice che c'era la non la c'era. Non è quello il discorso. Minimo a poche. Minimo, minimo. Minimo. Ciao, Luca. Ciao, Luca. No, a tutti, dai. La recentiamo. Di Antonio, dai. Buon 144, buon tutto, ormai già per i saluti Antonio Pombo e poi girare per Salvatore e Luca, vai, per i saluti. Ah, Pombolo era, mamma mia, non sento niente stasera, ciao Pombolo, se mi senti, no, no, mi dispiace, non lo stavo neanche riconoscendo. Ciao, Giulia. Ehi, avanti, Lu. Vabbè, da buio. Sì, sì, sì, no, mi stavo un pochettino così, chiacchierando qua, capito? È entrato un vigile, ha dato due fischi, poi sono uscito, pazienza, non ci vuole pensare nessuno. Ciao, te la rientrazzo, Antonio. Abbiamo un paio di biglietti con amici. So che poi non ho più bullato, sono rientrato. Non fa sentire rimanere. Ora non sono andato. Ma a casa adesso faccio una cosina. E poi andata. Sì, è fatto bene. Sempre meglio di rimanere in questa modesta di radio. Capito? Sempre meglio, carissimo. Tutto lì. È molto più gratificante che stare qui a schiacciare sto pulsante, diciamo così, del water. Vabbè, no. Sono stato in giro, poi mi è stato trovato qualche amico, vecchiate quella che era, qualche beta, qualche beta. Poi raccolando, però no. Non è più voglia, ecco, di bere, esatta idea. Poi quando diciamo che stava facendo le spalle, mi è dovuto andare per forza, perché non ce la facevo più. Mi ha mangiato un zimbido, cioè non è che mi ha fatto malizzetta la mira, ma ha fatto malizzetta a lui. Sempre le stesse cose mi ripeteva, cioè, una volta io, non voglio entrare, cioè, non voglio entrare. Mi trovavo via, faccio le 9 e mezza, cosa che ne sono. Guarda, mi guardava più, ma io devo andare a spesso, non voglio più. Comunque compagnia ci si diverte sempre, sicuramente è meglio che parlare qui con questo Ginori. No, tranquillo, no, tranquillo lì o lù. Io sinceramente non bevo, non fumo, niente, fumo solamente, diciamo così, peli di signorina e basta. Però non mi sono mai azzardato a superare i limiti col galleggiante, ecco, come dico io, perché poi alla fine stai lì nel bar eccetera eccetera a bere, ma ripeto ancora, è sempre meglio che stare in radio, c'è più divertimento, c'è più, naturalmente si è tra compagni e si possono fare delle battute in più, fate ancora. Sì, ma qua, ma questi peli di prima, colpito o senza? Ma guarda, solitamente con carta della Nuova Sardegna, quella che contiene molto inchiostro, è interessante, capito? È interessante. C'è chi preferisce fumarli con gli Scoffex, ma insomma, ultimamente anche quelli stanno andando in manovra, dice che li stanno facendo dalla scorta del topo. Vabbè. Beh, sono per voi con lo Scortex, tanto quanto. Ma sono per la Nuova Sardegna, quindi ci sarà scritto in forte. E quello è, lasciarlo il segno. Ah, va via. Va bene, mi assento 5 minuti, se ci siete, io vi saluto. Ti ho fame. Che fai? Ah, guarda, io ne avrò ancora per un bel po'. ti ripeto. Tipo, tipo due settimane fa ho chiuso alle 4:20 del mattino. Yeah, I do. sia. Guarda, io non si sente, si sente tutto fischiato, tutto strozzato. Se fare bugnetti. Tu. Si libri. Chi è? Altro tu, sì. Ma ti sei io, semmai è tutto fusciato. Veramente, guarda, che se non le avrei risposto qui. Non ho capito che è. Proprio niente, non sento la portante, ma c'è uno strascicchio. Boh. Che cosa? Non ho sentito, chi è? Aspetta, Aldo tu sei. Aldo? Che è popolo? Ega. No, non ci credo, cazzo. Non ci credo. Deve aver cambiato gabinetto. Non esce per niente con questo. Non ti arrabbiare, Antonio. Stasera stiamo usando il linguaggio pittoresco, via. Da scaricatore di porta, ma... No, stai uscendo, no. Anto, mi dispiace, però qui arrivi sotto il fosso. Farei il tuo ammoglio. No, no, Anto, non va. Non mi crepa. Vabbè, passo, proprio passo. Ti sento tutto... Non mica mi devi sentire, tu. Niente, capisco che parli, però non si riesce a capire ciò che dici. Tutto lì, con tutta la buona intenzione, naturalmente. Allora, una volta sì che gli uomini erano dei cavalieri, mamma mia, una volta sì, adesso invece c'è bisogno di vitto, aiuto, dove stai andando, ti mettono il gambetto, va, ti saltano addosso, tutto strappato, tutto attrattato, poi entra a casa, tua moglie, cosa ti è successo? Mi è passato sopra il tram delle 17:15. Tu non vago e bruciami in un casino diventato. Guarda, non c'è più correttezza. Io ho visto un altro giorno, perché ci sono bambini e bambinoni all'ascolto. Altrimenti, guarda. Non stiamo facendo discorso, ma c'è tra cui ognuno di ascoltare o di fare canale, come si può sta obiettando di... cui si può parlare a certa ora. Io capisco quando si parla a certa ora, insomma, ma a certa ora che si può parlare, scassare quando vuole. Il figlio va su sveglio, anzi, le figlie sono tutti svegli ascoltando, si dicono le parolacce, e il padre è addormentato. Ce la finisce così la storia, la figlia. Allora in radio non bisogna essere maleducati, capito? Poi al lavoro bisogna dire 7.000 parolacce, gatti 9, gatti guttai, capito? È consentito essere maleducati, non in radio, eh. No, sono sul lavoro, normale. Capito, essere maleducati con i colleghi. Ehi, Anto, sì. Maleducato con il radio, insomma. Allora, prego. Ti sento, stai usando il coso lì, l'eco, adesso ti sento, però è sempre a tu, strana. Non è strana, no, chiappa, ok, dai, quindi se voglio già mi faccio sentire, ciò che non lo posso usare la sera, ok, dai, continuate. No, ma adesso ho capito quello che hai detto. No, va bene, Antonio, ma non è la tua solita emissione. Già la mia solita. Solo che non posso usarlo, questo apparecchio. Ok, continuate. Ah, no, non ho detto che hai cambiato voce, attenzione, aspetta. Ho detto che hai cambiato voce. Ho detto che non è la tua solita emissione in tutti i sensi. Sento molto più basso, e vabbè, comunque non è importante, tanto buonasera, ben sentito lo stesso, dai, va, figurati, non stiamo lì adesso a commentare una portata di più, una portata di meno, avanti, ti ripeto. Cioè è così, però è giusto che si chiama la risa, perché, molto strano, veramente, la radio è fatta per discutere, parlare, scherziare, fare, dire. Non vedo motivo per cui si debba intervenire così bruscamente, vabbè, se vogliamo. Una cosa la vuoi sapere, la faccia in culo mi mettono, quelli che fanno così, ma veloci però tutti quanti, ho risolto problemi a persone che non ne ha idea e insomma qualcuno è rimasto zoppo. Adesso non ho nessunissimi problemi e come li risolvo io sono indiscutibili, tranquillo al mille per mille, anche perché poi c'è gente con la cappessa più tosta ancora che dietro, quindi meglio non rischiare mai a rompere le palle a chi non le devono rompere. Io dico sempre una cosa, e non aveva ragione, chi si fa i cazzi suoi campa 100.000 anni, chi non se li fa prima o poi trova un amico. E chi trova un amico trova un tesoro, ti aiuto. No, trova un sacco di piombo qualche volta. E vedrai per essere sicuri che poi siamo del narre già. Io dico sempre, io ho invitato sempre tutto e tutti, non mi sono mai attaccato con nessuno e quando mi sono attaccato c'è un motivo, se no cerco sempre di chiarire ovviamente. Però le persone secondo me devono essere un attimino più decenti. Io la vedo così e poi ognuno dice quello che vuole. Capito? Tutto lì, non c'è niente da fare. Ripeto a dire, specialmente quando uno lo si conosce e io qualcuno lo conosco. Infatti, positivo. Se no, così dico, non si stava né offendendo nessuno, né facendo nome di nessuno, se no facendo un essere tranquillo, senza una parola a nessuno, non era motivo perché non me ne intervenire così comunque. Niente, non me la fotte una, io continuo il mio questo, non me la fotte una di nessuno, ovviamente. Sì, ma è ignoranza, capito? Io la vedo pure ignoranza, poi vista l'ora, insomma. E per darsi un tono, capito? Tutto lì, solo che a me sinceramente qua non me ne sbatte nulla, è un po' come che abbia ragliato un asino o un somaro, come dico io. Del resto tutto a posto, insomma, lavoro si continua andare avanti, giustamente, e va bene, dai. Guarda, lascia per. Lavoro già ce n'è tutta birra a scascio, come dico io, però c'è poca almonera, ovvero chi deve pagare a volte tarda e quindi ogni tanto mi armo di piccone, capito? Aspetto sempre che diano gli input per consegnare i soldi al proprietario, mi trovano nella porta della costruzione e sganciano i soldi per forza. Bisogna fare così, perché la gente, molte persone per quello che vogliono ce le hanno i soldi per comprarsi le cazzate, il TV con il 42 pollici, la moto con il teschio sopra e non hanno soldi per pagare i lavoratori e questo non mi va giù. E adesso siccome stanno imparando anche le perizie e tutti come sganciano soldi vogliono vedere adesso addirittura anche la fattura di chi esegue i lavori e fanno bene, perché alla fine prima non davano i soldi, se li intascavano così, tutti li bordellavano i danari, adesso è cambiata la musica, capito come? Quindi paga la gente in generale e poi lo sai chi non pagano? Gli stipendiati. Allora, capito, quelli sono i più pessimi, non dico tutti, però c'è un buono 65% che vuole messo nella camera a gas, anzi no, il gas costa, messi sotto una pressa di quelle per automobili gratis, sganciata di colpo così, senza pagare niente, per inerti hanno lo stesso peso della pressa e fatti a sangue, figurati un po', molta gente non paga, sono più quelli, come dice qualcuno, sono più quelli che non pagano che quelli che pagano, capito? Ed è la sacrosanta verità. Ecco così, poi tutto lì, cosa vuoi fare? Si va avanti, è un periodo duro, difficile. La Sant'Anche dice che 30.000 euro al mese sono pochi, che non si può vivere, allora io l'ho scritto a Baldracca in internet, e firmato pure, l'ho scritto bella Baldracona, vieni da me che mi fa un lavoro. Gli ho scritto proprio questo, cioè, ma ti rendi conto come hanno ridotto l'Italia questi bastardi? Bossi è un grandissimo somaro, il figlio, quello lo vorrei tra le mani una frazione di secondo, un anno secondo, capito? Solo un anno secondo. Non parlo poi di quello che stanno combinando gli altri perché è un vomito. Io dico, quando uno voglia veramente di ammazzarsi, perché non prende un camion e si butta carico di tritolo contro Montecitorio? Almeno le fanno l'encomio solenne, invece i poveracci, gli imprenditori si stanno ammazzando uno a uno per furia dei debiti, per estinguere i debiti, ma dai. Sì, beh, siamo d'accordo. Allora, discorso, guarda, a me è capitato per il lavoro che faccio io, che le persone veramente che non avevano niente ti offrivano di più di quelle persone che hanno, e si conferma quello che dici tu, capito? Si conferma proprio quello che dici tu. Chi non ne ha si fa mille e due pizzi, per dire. Chi invece li ha i soldi se ne affrutta le palle, cioè non, manco ti caga, capito? Ma neanche un bicchiere di acqua sporca, che è una vergogna, eh? Capito. Che problema c'è? Non c'è nessun problema. Basta non servirli e il circuito chiude lì. Personalmente, quando incontro personaggi dispari, così no, neanche dispari, quando incontro certe sagome, diciamo che posso discuterci una volta, la seconda non li vedo più perché non mi interessa più servirli, e questo è chiuso lì. Perché poi servire certa gente fa veramente schifo, ma fa veramente schifo. Io, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che ho sempre cercato di fare del mio meglio, e sto facendo del mio meglio ovviamente, perché le persone hanno diritto a un buon servizio, e ho cercato sempre di essere, guarda, puntualissimo, scattante, veloce, però ti dico la verità, se avessi la possibilità, mi comprerei una frusta, no? E li aspetterei tutti quanti all'uscio di casa, li frusterei uno per uno, e dice, ma chi è questo che frusta la gente così? È uno che praticamente capisce cosa c'è dentro, anche se non parlano, si vede già dallo sguardo che sono dei somari, che non vogliono pagare nessuno, e iniziano a rompere le balle, questo costa un sacco di soldi, questo è così, questo è colà, ma dappertutto, io ho sentito, c'è un mio amico che fa roba di serramenti, mi ha detto, mi hanno distrutto, dice, mi stanno portando, dice, all'esasperazione. Quell'altro dice, sono un anno che non lavoro, dice, perché alla fine, dice, fatture mai incassate, un macello nero. Quell'altro ancora, e beh, tu, e io, dice, mi stanno disintegrando le tasse, boh, quello se ne è scappato con questo, quello se ne è scappato con quello ha fallito il beauty center, 100.000 euro di prodotti, boh. No, un macello veramente, guarda, non so parole, oggi, no, abbastanza poco c'è tutto, vedrai che arriveremo a qualcosa molto, ma molto decidio. Hai capito, allora, lascia perdere. E molta gente perché è nervosa, molta gente perché scantara, per questo motivo, scantara per questo motivo, e non se ne rendono conto, capito? Io, boh, di te so che sei una persona che ultimamente ha problemi di lavoro, ma sei troppo in gamba, io ti ammiro molto, sai, essa. E tu tieni presente che io ho contatti con mezzo mondo, ma proprio come te lo sto dicendo, a prescindere dalle amicizie internet e compagnia bella che sono, che contano e come su queste persone di un certo livello, ma non ho mai visto una persona in gamba così, guarda, così saggia, devo farti dei complimenti, sinceramente, non ti conosco perché non ti ho mai visto, però da piacere, scherzoso, solare, una persona tranquilla, capito? Non come certi che hanno la mafia in testa. No, io sono una persona che mi piace vivere la giornata, giocare, quello che viene viene, quello che non viene lasciamo perdere, io vivo la giornata, bisogna essere solari, sempre positivo nella vita, perché se non sei positivo è inutile mai avanti, devi essere molto molto positivo nella vita, non ti devi mai abbattere in nessuna maniera. Poi il lavoro pian pianino, che se hai voglia di lavorare esce il lavoro, perché esce, non penso proprio che ci siano problemi. Guarda, la verità vuoi sapere, a dispetto della crisi ci sono giorni che incasso 100 euro costanti, netti, no, non è che sto parlando così tanto per dire malvarate. Quindi fondamentalmente una persona deve saper fare le cose, io sono un poliedrico, mi sono aggiornato in parecchi campi e conosco, non per dire, ma conosco, realizzo, vendo, compro, capito? fuori tutto, non c'è bisogno qui di tirare fuori la carta d'identità, però guarda, ti garantisco che io tutto questo casino qui dicono non lo vedo, a prescindere, vabbè, che a volte succedono i furti, come dici tu, bisogna anche saper vivere la giornata, ma se uno appena appena voglia di fare, al posto di rifiutare le cose, no, recuperiamole qualche volta. Invece tu vedi, c'è quello che si mette in alto l'occo, io questo non lo faccio, quell'altro non lo faccio, la gente poi butta, compra, ricompra sempre lo stesso oggetto e si impoverisce. Oh, ma io ho visto quelli della Folletta l'altro giorno, sono venuti qua, no? Dice buongiorno, diceva, dice, ah, noi vorremmo, stiamo rappresentando la Folletta, va benissimo, mica, mi serve il Folletto, io l'ho fatto vedere, ce l'ho già, ma questo è vecchio. E dice, ma qui in questa città siete retrogradi, ma si figuri, io ho anche il grammofono all'entrata di casa, ho detto, vuole sentire un disco? Perché io sono retrogrado al massimo, a me mi piace il retrogrado, e basta. E continuavano lì, due belle ragazze, tra parentesi, e continuavano. Ma dice, sa, dice, noi proponiamo un articolo della Folletto che aspira anche senza sacchetti, insomma, 1500 cose, i sacchetti non servono più. Ho detto, come? Quando siete venute la volta scorsa, forse erano le vostre nonne o mamme o che diavolo era, mi hanno parlato del Folletto come l'aspiratore magico che si ciucciava anche quella del genio. E adesso lei mi sta dicendo che non servono più col sacchetto, servono senza il sacchetto. E cos'è? Ho detto che si sono tutti profilattico. Ma allucina, ma tu devi vivere la prepotenza che avevano. E ho detto, ma non lo so, non mi interessa, a un certo punto non sappiamo più cosa dire. Anche simpatiche, però fondamentalmente un po' invadenti. E così la gente si impoverisce così, si impoverisce, non capiscono che c'è crisi e che la gente ha bisogno anche di essere supportata da quel punto di vista. Mentre che ti truffi gente che si ricompra una macchina per gusto, una moto per gusto, e poi un altro cazzo dopo non c'è quel grado. Quello sì. Perché io sono del parere che il passo di fare quanto è grande la tua gamba, è inutile andare oltre la tua gamba perché non risolvi niente. Guarda, adesso a parte tutto, no? Allora io ho una marea di amici e vedo come lavorano, cosa fanno, cosa non fanno, vedo tutti i tipi, tutti i mestieri. Molte volte dico, ma insomma, cos'è? Tutta una finta, questa storia della crisi, un lamento malugulo, come dite voi a Sassari, o che cos'è? Legnabelli? Cioè, non si capisce niente. Morti, siamo morti, questo non è modo di vivere, ma vita totalmente, non ci sono soldi. L'indomani, televisore 42 pollici, mi si è rovinato il decoder, non potevo acquistarne uno nuovo, conveniva. Il televisore costa 400 euro, il decoder 30 euro, ragionamento. No, su quella qui ho ragione. La gente per spendere soldi cazzate li trova, per spendere soldi veramente che deve spendere per questioni molto più simili, non si riesce. No, ma a me è capitato anche nel mio capo di andare, c'era tutta la gente che c'è, dice proprio a me sta cercando per andare a lavorare, cioè molta gente non ne ha voglia di lavorare, soprattutto non ne ha voglia, capito? E io devo scegliere una volta che sono andato a fare campagna e non vorrei vergognare di dirlo, perché proprio per fare tu per fare la giornata andava a zappare, e beh, e che male c'è? Stavo a zappare, sì, ma vai a zappare per la giornata giusto per poter campare. Però molta gente, molti giovani di oggi, caro Giovanni, non ne hanno voglia, è inutile che tu li metti lì a fare, ci devi stare sempre addosso, ci devi stare sempre addosso. È la vita dei mali vagatori, è la vita dei mali vagatori, con la buonasera. Ehi, non mi dico, buonasera, mi ha ascoltato. Un po' più di potenza, abbassa l'eco, perché sinceramente, guarda, non ho capito cosa hai detto, ben sentito, Giovanni da questa parte. Piatta Cotanguidia, Romeo India, città. Bene, vediamo un po', riprendi. Siamo a Giovanni Domenico, ho detto Mali Vagatori si chiamano quelli di Sassarese, capito? Chi ce li ha non vuole pagare. grosso problema questo, eh? È un grosso problema. A me mi hanno santificato le palle, questi che non pagano, e non le posso vedere mancuno, perché non le posso vedere mancuno. Ma lo pagatori, e io non gli do il servizio, e si ammazzano, capito? Molto ci vuole. E vadano dove cavolo vogliono loro, tanto sempre pagare devono, e se non pagano non me ne importa, io ragiono così. Però guardate, io vi dico una cosa, mio nonno diceva sempre così, chi è resiliente deve dipendere, giù è sempre dimonioso a pendere, ed era vero. Ed era vero, ci sono sempre dei modi da vendere che dipende dal cliente, è uno schifo. Oh, il più buono vuole, appeso la Torre Eiffel. Ma guarda, io faccio un mestiere particolare, e tu devi venire, se non ci credi ti metto un giorno a vedere come quello scarichiamo demolitico. Tutto a livello casariccio, questa media shopping. Ecco, se i soldi non ce n'era, tu la palestrina non te la ordini, il vibratore non te lo ordini, le cose sexy non te le ordini, vedi una spese 300-400 euro, ma cosa? Ma non un giorno, in un mese ne ordini due o tre. Guarda, a me queste cose mi fanno ridare, mi fanno andare fuori dai gangheri, letteralmente, perché chi dà un servizio deve essere pagato, è maledetto chi non paga l'operaio, proprio veramente maledetto, c'è scritto anche nella Bibbia, e Gesù Cristo aveva ragione, come ragione in molte cose, ma lì in modo particolare ha maledetto chi non paga l'operaio, e ha ragione, capisci? Poi il bello, sai cos'è? Che ti trovi, no, fronte a fronte con una persona che a volte ti vergogni, col lavoro che gli hai fatto, ti vergogni di chiedergli i soldi, ma ti rendi conto dov'è? No, lo so, ma lo sai quanta gente c'è, oh, è la vita, quella lì ormai non fa la tua piangere, no, più stanno in banca e meglio è, capito? Però a livello io di poveretti che dicono che sono poveri, non ci credo più, non ci credo. Perché cazzo quello che consegniamo noi nelle case, e vedi cazzo gente che proprio fanno vedere la miseria, fanno vedere, tu ti metti le mani in testa, stanno scarpe a 200 euro dall'America, cazzo, se vedevi cazzo questa famiglia, cazzo, gli ho consegnato le scarpe a 200 euro, cazzo, non te ne dico, tutto in contrassegno, soldi in contanti. Sì, e dov'è? Guarda, ho capito buona parte del discorso, comunque ho capito che ti sei trovato fronte a persone che non hanno niente eppure acquistano oggetti di un certo valore. Dov'è? Guarda, non lo so, non voglio adesso andare fuori di testa, perché poi a me questi ragionamenti così degni di nota comunque, perché chi non paga, lo ripeto, lo dirò, vuole bruciato a rogo come facevano con le streghe nelle sante crociate, senz'altro, vogliono bruciati nel rogo. Io guarda, ti dico una cosa riguardo di quelle persone che così si comprano magari oggetti anche, come si dice, sexy shop, però lasciano molto di fame il bambino o la moglie, insomma quelli sono mondezza, io li definisco la mondezza della società. Non lo so, non ho conosciuto quel genere di educazione, quindi è molto rigida, anzi ferrea, quella che ho ricevuto, quindi non so neanche che mondo sia. Però una cosa è sicura, che i vizi hanno rovinato gli italiani, moltissimi vizi, compresi quelli di acquistare automobili di una certa portata, case, casermoni che poi non hanno finito di pagare, ci hanno finito a sequestrarsi. Insomma, ci sono 100.000 miliardi di cose che potrei dirti, Domè, ma non ne vale la pena credere. Avanti, Domè. Io lo so, non so se ci vieni qua all'altra, ce n'è di ogni colore, ce n'è. Io purtroppo ti sto dicendo la mia vita, cazzo, una cosa, io adesso domani mattina vedo il bilico scaricato. Guarda, su 1.200 spedizioni che arrivano, 800 sono uso familiare. Dov'è? Guarda, soglia. Allora, 30 anni da riparatore, va bene? E ne ho una quindicina da forse 17 da informatico, elettronica, elettromeccanica, impiantistica, confermato al 100%. E beh, allora, lo sai cosa ti dico? Arrivato a un certo punto non è che disprezzi tantissimo quello che non fa niente tutto il giorno e ha i soldi in tasca, non lo disprezzo, perché molte volte lavorare non conviene più, non conviene più, perché ti trovi di fronte a una miriade di problemi, no? E addossato poi a questi parassiti che non, perché sono parassiti, che non riescono a capire appunto chi lavora, e magari dice, percepiscono pure uno stipendio. Ecco quello che io non riesco a capire, cosa mala sorte li frulla in testa. Non lo so, non lo so, non ho... Sinceramente, Domè, è una cosa che mi dà fastidio quando non pagano le persone. Lo so, dai, scusate un po' che apro il cancello, che sono arrivato. Tra un po', a dopo. Ok, a dopo, Domè. Avanti, Domè. Ehi, a dopo, Domè. Ehi, ma è così, purtroppo è così. Sì, sì, si ritrova il discorso che per cazzate i soldi li trovano. Per le cose veramente necessarie e bisognose i soldi non si trovano, mistero Giovanni, mistero. Guarda, ok, una cosa che mi ha sempre fatto schifo è la persona che va ad approfittare di chi lavora, mi ha sempre fatto schifo quel genere di persone, e ce ne sono tanti così. E magari sono anche quelli, sono anche quelli che fanno la morale a te, capito? Se si incappa, si incappa. Non lo so, io ho l'unica soluzione quasi così non servirli, ma intanto troveranno sempre il pollo, specialmente quando sono periodi di crisi, riescono bazzicando qua e là, straccia da uno, tira dall'altro e poi gli inventano una scusa e poi qui e poi là. Beh, lo sai che molta gente si è fatta la casa così. Sì, ci credo, hai voglia. Si è fatta proprio la casa, ha fatto tutto questo, magari è andato, che ne so. Oh, io so certe storie, andare a informarsi, sono informati di chi era mezzo malmesso nell'edilizia, cioè nelle vendite così, no? Di materiali edili, eccetera. Ha detto, dice, cosa c'è ad esempio Bricom? Aspetta che vado là. È andato lì, ma io non ci credo nei materiali, quello tutto contento, dice, ma chissà, la gente si sta ricredendo, capito, gli fa il buono. Poi ritorna, sai, capito, magari gli dà, adesso 50 euro, dice, ti saldo estremamente tanto, fa una spesa di 3.000 euro, poi non si vede più. Sì. E quello, fatti che allucinanti, tutti simpaticoni, furbacchioni, capito? Tutta gente, lasciamo perdere. Tutta gente che fa veramente schifo, ma veramente schifo. Io ripeto e ritorno a dire, odio le persone che non fanno, le odio. Punto e basta. Odio i falsi, quelli li odio come danno di Giuda. Però odio di più chi non paga. Soprattutto si torna sempre al discorso che è fatto poc'anzi, che sono proprio le classiche persone che pur ti chiamano a lavorare e sono proprio quelle persone che non ti pagano, capito? C'è sempre il buono e il conto di tutte le cose, che poi pretendono, nonostante non ti pagano, non ti danno quello che devono dare, o per la qualifica o per una cosa, però sono proprio le persone che pretendono, capito? Soprattutto pretendono il tuo lavoro, capito? Figlia, che sto dicendo? No, ma guarda, non so cosa dire, ma io ho avuto delle clienti che ora, fortunatamente, speriamo che se le abbia ingoiate l'inferno, ma speriamo che Satana le abbia messo una parrucca, ho mollato, ho fatto sgancia, andavi lì, ma aspettavi a pararti, cioè, non ce n'è, capito, questa non fa, vabbè, ci vediamo la prossima volta, va bene, un'altra volta, vai in quella, porca miseria, questo non era previsto, vabbè, gli altri li passo a casa, senza sapere manco dove abita, io gli faccio la domanda, ma mi scusi, io e lei ci veniamo stasera per la prima volta, lei non sa dove abito, come fanno a portarmi lì a casa? casa. Allucinante. Allucinante veramente. Perché questo? Premetti i uomini, cioè molte volte gli interventi sono poco e quindi, però se ne fai 10 a 20 euro su 200 euro in casa mia, vanne a capire, no, sinceramente guarda, non credo più nel cliente, non ci credo più, non me ne importa, adesso sono molto fiscale. Pronto? Sì, mi dica. C'è il TV impallato? Sì, va bene, guardi che la chiamata è 20 euro, va bene? Ma io la saluto, buongiorno, di telefono. Sì, va bene, viene, non c'è problema. Arrivi lì, allora, sblocco, risintonizzazione, problemi nei vari, software aggiornamento, ho fatto tutto. Sì, cosa hai fatto? Niente, ho detto, che problema c'è, perché? Mi sembrano troppo 20 euro, capito, guardatelo. E allora dai, aspetta il giochetto, subito aspetti, mi guardi, sto chiudendo. Anche invece mio marito, lo lasci tutto così, dopo un giorno, tutto un casino. Sì, ma è così, così. Va bene, Giovanna, io me ne vado un po' in 144. Ci si deve ascoltare, dai. Fate una piacere, Giovanna. Ci si ascolta. Ciao, buonanotte. Ciao, perché stiamo in te. Con tutto, con proseguimento. Tante belle gocce. Ci sentissimo. Vai, vai. Avanti, Claude, se ci sei. Ciao. Avanti. Sono entrato a salutarvi, stavo ascoltando. E sono entrato a salutarvi sola. Aspetta. Allora, Gianni, la calda notte della frequenza. Ai grotte. Sai che sei in tana? Io gambe, no. Stavo finendo di aggiustare una cosa che stavo ascoltando, dai. Gianni. Ui. Allora dico Gianni, devo dire doppio room. Ah, avanti baby. Tutta la sera che mi sta ascoltando, dai, faceva piacere ascoltarvi. Non avevo voglia di entrare, ero un po' stanco, mi sono anche addormentato, poi ho sentito a Giovanni con Falchetto e sono entrato adesso mi salutare perché ho sentito come se ne stavano andando. Brava. Brutte notizie, domenica piove. Yeah. Va bene, dai, grazie Gianni per essere entrato a salutarci, ovviamente sei sempre ben accetto, fa sempre piacere ascoltarti. Grazie a tutti, grazie a Scoltone, grazie a Nonno e ci ascoltiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao Giovanni, buonanotte. Ciao Giovanni, buonanotte, buon 144, ci sentiamo alle prossime. Gianni Le Pirro. Mi stavo ascoltando, ho sentito che stavate parlando di roba da mangiare. Negativo, io parlavo del fatto che avevo solamente in un'altra stanza una sessantina di chili di zucchero. Cazzarola, pensi che vada male? Non va male, lo zucchero no, lo zucchero già rimane lì. Però ho sentito le previsioni del tempo, nulla di buono. Sì, positivo, magari c'è errore, tante volte sbagliano anche. Comunque, Burgos c'è la festa. Sì, ma domani dopo c'è la cavalcata. E lì si guadagna bene, capito? Quello sì. Beh, ti risfrutti lì. Ti metti in un punto riparato, ma... Non è che lo decido io. Domani mattina devo andare ai vigili urbani, mi danno il punto, anche perché è una mafia che la metta bassa. Lo so, ogni anno è così. Si bisticciano per i posti, un casino succede ogni volta. Niente. Quindi tu devi andare alla cavalcata, c'è anche San Gavino, c'è la festa, mi hanno detto, aspetta, mi stava dicendo qualcuno che c'ha il chiosco, ecco, se mi ha detto che c'è la festa alla corte. No, ce l'ho tutte segnate, non c'è problema. Alla corte dove? E Monte, mi ha detto il nome, non mi ricordo come si chiama. Monte c'è, sicuramente. Quando è questa festa? Me l'ha chiesto, mi ha detto, sino a che ora fate le consegne, perché devo prendere un po' di roba e niente, e non mi ha detto mai c'è nato quando, però mi ha detto che doveva prendere un po' di roba, se la portavo lì al bar, perché poi se l'avrebbe portata lui là. Ho detto non c'è problema, perché c'è la festa lì e devo mettere il chiosco. Però non mi sai dire dove. Sì, è alla corte, mi ha detto, lo sai dove è questa zona qua? Ho detto no, ma è alla corte, c'è la festa lì. Il capo però mi serve una data, Gianni, assolutamente. Ma cos'è una festa campestre? Sì, sì, deve essere una festa di zona, dai. Una data. Se io gliela porto glielo chiedo, non c'è problema. E gli porto la merce e gli chiedo, ma la festa quando la fanno? Per oggi no. Già, e ci chiedevo chiudere, sto finendo di rimettere a posto un macchinario. Ci sentiamo domani, dai. Buonanotte, buon 144, ci sentiamo nei prossimi. Ti aspetto un secondo, sto tipo che è una cosa, per quella roba là non abbiamo deciso nulla. Sto parlando, siamo quasi tutti d'accordo, non c'è problema. Stavo parlando anche con Sandro di Porto Torres per vedere se si poteva far lì, o da Cilia o da qualcun altro, e non c'è problema. E sono da calendarizzare come cosa, come data. Vabbè, fissiamo una data, no, perché io ti ho detto pure che parlano di pancetta, di cose del genere, e non, mi stavo un po' confondendo come lei, si vuole fare in un locale oppure si vuole fare qualche cosa a livello di arrostito. Ho sentito anche Fabrizio al limite sarebbe intenzionato a mettere a disposizione la casa secondo il numero che siamo, non c'è problema, la possiamo fare a casa sua. Sì, ma non conviene, facciamo un bel casino, sportiamo, facciamo, è meglio in un locale così, una volta che te ne vuoi sarà già niente. No, al mare sto dicendo, però me c'è la casa al Villaggio Rosso e lo facciamo fuori, una volta che a parte uscito tutto, pigli i piatti e il bicchiere di carta e tovaglia di carta, una volta che hai finito proprio fai tipo quelli sono le posate e giri tutto quanto intorno alla tovaglia, riempi un sacco e arrivederci. E so dove si un sabato di giornata, perché la facciamo sabato notte, se ti va. Bisogna che sia un sabato dove non lavoro. Comunque al limite chiedo a qualcuno di sostituirmi, adesso vedo. Sabato notte però. Si parte un po' tardino, di modo che ci facciamo la nottata e vedo così. Vero, già si può fare anche così. Va bene, dai, ci sentiamo alle prossimine. Buonanotte, ciao ciao. Ciao, ciao, buonanotte.